2024 2024 di Enrico Pagliarini. Siamo di nuovo in onda con una nuova puntata di 2024, la puntata del 5 maggio 2012, il famoso 5 maggio. Questo è il primo programma alla radio dedicato alla tecnologia, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia, disponibile anche attraverso il servizio podcast di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, se volete seguirci avete anche la possibilità di farlo attraverso la nostra pagina Facebook, oppure potete utilizzare anche Twitter, ogni tanto lancio in rete qualche messaggio anche per ricordare i programmi della nostra radio, i temi di 2024. A proposito di temi di 2024, vi anticipo fin d'ora, cosa che ho già fatto nelle scorse settimane, ma ve lo ricordo, che la prossima settimana saremo in diretta dal Salone del Libro di Torino per parlare di tecnologia e di libri. E naturalmente, parlando di tecnologia e di libri, non si parla solo di commercio elettronico, cosa che si faceva fino a qualche anno fa. I libri erano uno strumento che veniva venduto attraverso internet, cosa che accade ancora oggi, ma negli ultimi tempi e soprattutto nei prossimi anni assisteremo ad una trasformazione del mondo del libro molto forte, ovvero di tutto quello che noi chiamiamo ebook, gli ebook contenuto e gli ebook reader, lettori di libri digitali. Questa è una rivoluzione che sta cominciando ad accadere, molto lo vedremo nei prossimi anni, ma si stanno facendo molti giochi e quindi si sta, lo dico positivamente, si stanno cominciando a porre le basi di questo mercato. Dunque, vi ricordo che questa trasmissione sarà disponibile anche attraverso il servizio podcast di Radio 24 e vi ricordo anche che nella seconda parte parleremo di TV e di nuovi servizi che sono stati presentati nei giorni scorsi, servizi di TV via internet on demand. C'era molta attesa questa settimana per un prodotto della Sony, quasi un'attesa come quelle che viviamo quando stanno per uscire prodotti di Apple. Samsung ha cercato di rispondere, sta cercando di rispondere all'iPhone, anche se è già diventata l'azienda numero uno nel mondo della telefonia mobile in generale, numero uno nel settore degli iPhone, degli smartphone, pardon. Ma a proposito di iPhone, sta cercando di staccare l'iPhone in tutto il mondo, gara non facile. Ieri l'altro è stato presentato a Londra il Galaxy 3. Erano noi. Abbiamo chiesto a Massimo Morandi, direttore di Cellular Magazine, di raccontarci quali sono le caratteristiche di questo telefono e soprattutto di questo smartphone e soprattutto se l'attesa, si è parlato moltissimo in rete di questo prodotto, era adeguata poi alla presentazione di questo nuovo terminale. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Ma guarda, è un prodotto che ha caratteristiche naturalmente da super phone, da top di gamma. Stiamo parlando di un display Super AMOLED, in questo caso da 4,8 pollici, quindi un grande display, fotocamere da 8 megapixel, sistema operativo Android 4.0, quindi nella versione Ice Cream Sandwich, processore a 4 core, quindi tutte caratteristiche tecniche fortemente da top di gamma. Si è parlato molto di un sistema per il riconoscimento vocale che è una sorta di risposta al Siri di Apple e in generale molti dicono che questa è proprio una risposta diretta all'iPhone. Tu che cosa ne pensi? Ma io penso che nella conferenza stampa di Londra di giovedì abbiamo visto più di una risposta probabilmente ad Apple. Questa è una, il software di riconoscimento vocale si chiama S-Voice, è un sistema che riconosce la voce senza la necessità di addestrare il telefono, funzionerà al lancio, che tra l'altro è il 29 maggio nella maggior parte dei paesi europei, in 8 lingue, compreso questa volta l'italiano. Italiano che in Siri attendiamo ancora. Noi abbiamo fatto qualche prova in serata per cercare di capire un po' come funziona e devo dire che dalle prime impressioni è sicuramente un software che funziona bene ed è anche abbastanza simpatico da usare. Poi su quanto l'utente medio utilizzerà il riconoscimento vocale, questo è ancora difficile a dirsi, però penso che ci siano un paio di funzioni molto utili, soprattutto quando si è in auto, che non è solo quella di chiamata, ma ad esempio di messaggistica, di impostazione del navigatore, diciamo che stiamo andando in una direzione molto interessante. Questo schermo è meglio del Retina Display? No comment, è difficile da dire, perché poi bisognerebbe davvero avere due telefoni uno vicino all'altro, ma mi riservo di raccontartelo non appena proveremo questo smartphone, cosa che succederà nei prossimi giorni. A proposito di prezzi, è stato anticipato qualche cosa? Guarda, il prezzo ufficiale non c'è ancora, non c'è per nessun paese europeo. Noi abbiamo provato a indovinarlo e abbiamo scritto 699. Naturalmente mi prendo io la responsabilità di questo valore, ma ritengo che non dovremmo essere molto lontano. Massimo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a te Enrico, un saluto, a presto. Tra poco avremo altre notizie tra le più importanti della settimana. Adesso parliamo del presidente dell'autorità per le comunicazioni, Corrado Calabrò, che ha tenuto la sua relazione di fine mandato, perché a metà mese scade il consiglio dell'AGCOM, che dovrà essere rinnovato. Questo è un tassello molto importante per la nostra democrazia, per il sistema industriale, per il sistema paese, non solo per il sistema delle telecomunicazioni. Naturalmente Calabrò ha illustrato come è cambiato il sistema delle comunicazioni in Italia, ha ribadito i ritardi dell'Italia nella disponibilità e nell'uso delle tecnologie digitali. Internet è un fenomenale motore di crescita sociale ed economico, ma la rete fissa è satura e quella mobile rischia ricorrenti crisi asmatiche. L'Italia è sotto la media UE per la diffusione della banda larga fissa, per numero di famiglie connesse a internet e a internet veloce, per gli acquisti per il commercio online. Nel Regno Unito anche le case si vendono e si acquistano in rete. Per l'esportazione mediante internet l'Italia è fanalino di coda in Europa. Solo il 4% delle piccole e medie imprese, ovvero la spina dorsale del nostro tessuto produttivo, vendono online, mentre la media europea dell'Europa è 27 e del 12%. La via che hanno intrapreso gli operatori di telecomunicazione per la loro espansione è stata quella di dotarsi di un maggior numero di frequenze per la telefonia mobile, da qui il successo della recente asta. Ma pur col potenziamento LTE, senza l'integrazione con la fibra, quantomeno nel backhauling dalle stazioni radio, la rete mobile non sopporterà ingenti volumi di traffico, specie nelle ore di punta e soprattutto per lo streaming video. Il problema delle reti nuova generazione, anche per la rete fissa, non è più rinviabile. Che è quello che diciamo a 2024 da parecchi anni. Più internet significa milioni di posti di lavoro e naturalmente se questo lo guardiamo in prospettiva sono veramente milioni di posti di lavoro in più, ma soprattutto nascita di nuove imprese in questa economia digitale, imprese guidate da giovani. E in un paese che proprio questa settimana ha riaggiornato una triste classifica, cioè il record della disoccupazione giovanile, questo dovrebbe essere forse una delle due o tre priorità di tutta la politica. È ormai un punto fermo che lo sviluppo di un ecosistema digitale e alla base del recupero di produttività per migliorare la competitività internazionale di un paese e per creare nuova occupazione qualificata. L'economia internet in Italia vale solo il 2% del PIL. La stessa stima conduce a valutare l'internet economy del Regno Unito nel 7,2% del PIL. Il ritardo nello sviluppo della banda larga costa all'Italia tra l'1 e l'1,5% del PIL. Senza infrastrutture a banda larga, i sistemi economici avanzati finiscono su binari morti. C'è ancora scarsa consapevolezza delle potenzialità globali delle tecnologie della società dell'informazione, il che relega queste ultime a uno dei tanti strumenti di sviluppo economico, mentre esse possono invece dare una spallata a un sistema imballato. Il settore delle telecomunicazioni è la chiave di volta della rivoluzione digitale che, abilitando l'innovazione, può cambiare radicalmente i paradigmi dell'economia e della società. E mi sembrano talmente chiare queste parole che è inutile qualsiasi altro commento, anche perché sono concetti che di settimana in settimana ribadiamo a 2024. Allora a questo punto è estremamente importante che il rinnovo dell'AGCOM, quindi dei quattro commissari più il presidente dell'autorità per le comunicazioni, sia fatto basando la scelta su persone, puntando il dito su persone competenti. È per questo che esiste una campagna che si chiama vogliamotrasparenza.it, sono già una ventina le associazioni che appoggiano questa campagna per spingere i partiti, soprattutto PD e PDL, affinché la scelta di questi commissari avvenga non in base a metodi carbonari, come succede molto spesso, ma in base a curricula pubblicati in trasparenza, e lì si vede chi è competente e chi invece è incompetente, non è capace di capire, di comprendere che cosa debba essere fatto per spingere verso lo sviluppo di una economia digitale. Tutto questo anche perché l'Europa ha attribuito negli ultimi anni molte competenze in materia di internet e di nuove reti di infrastrutture all'autorità per le comunicazioni, quindi è molto importante. Non bisogna farlo pensando alla TV, che ormai rappresenta il passato, il futuro è rappresentato da internet, e anche la TV dovrà passare a fare i conti con internet. Di questo parleremo nella seconda parte di 2024, parleremo di alcuni servizi che dimostrano proprio quello che sta accadendo. 2024 si ferma per un minuto. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro servizio podcast, quindi avrete la possibilità di scaricare il file MP3 della nostra trasmissione. Ci risentiamo tra poco più di un minuto. 2024. Tra poco parleremo della Singularity University, che ha fatto tappa a Milano. Adesso alcune notizie della settimana. Digital News. Iniziamo dalla Apple, che ha esteso anche ad altri paesi, tra cui l'Italia, il servizio iTunes Match, che permette di sincronizzare la musica che si trova ad esempio sul nostro computer con altri dispositivi, fino a 10, utilizzando il servizio iCloud. iTunes confronta il nostro archivio e sincronizza qualsiasi brano indipendentemente dalla provenienza, e poi lo sostituisce con una copia di qualità 256K. Quindi nel caso di una canzone copiata e magari non di alta qualità, si guadagna una copia legale di buona qualità. Questo, che alcuni giustamente chiamano condono, costa 25 euro al mese. Naturalmente, se le canzoni sono originali e di buona qualità, vengono sincronizzate in modo totalmente trasparente. Se le canzoni non appartengono all'archivio dell'iTunes, non possono naturalmente essere sincronizzate a 256K, ma vengono sincronizzate in base a quella qualità. Comunque è un sistema sicuramente molto comodo, anche per chi, diciamocelo chiaramente, ha molte canzoni pirate che con 25 euro all'anno possono diventare originali e di buona qualità. Microsoft ha firmato un accordo con la catena di libreria americana Barnes & Noble, che negli Stati Uniti ha lanciato con successo da parecchio tempo il lettore di libri digitali Nook, un ebook reader di grande successo. Le due aziende hanno fondato una nuova società per lo sviluppo del business degli ebook. Microsoft investirà 300 milioni di dollari per il 17% del capitale. Il resto è nelle mani di Barnes & Noble, che metterà soprattutto asset e know-how nel settore. La mossa la dice lunga sulla competizione crescente nel settore degli ebook e degli ebook reader, con l'entrata di nuovi protagonisti. Si continua a litigare sui brevetti un po' in tutto il mondo. Gli ultimi capitoli riguardano Motorola e Nokia. Prima parliamo di Motorola, che ha ottenuto il blocco delle vendite in Germania, pensate, di Windows 7 e di Xbox, la console di videogiochi di Microsoft. È stato annunciato ricorso, ma in ogni caso si tratta di una vittoria simbolica, poiché il mercato tedesco verrà rifornito sia di Windows 7 sia di Xbox dal centro logistico olandese della Microsoft. Quindi per i consumatori non cambia nulla, per le aziende si tratta di una battaglia vinta, di una guerra planetaria che chissà quando finirà. L'altra azienda che si è rivolta al tribunale questa settimana è Nokia, che ha fatto causa negli Stati Uniti e in Germania a HTC, RIM, il produttore di BlackBerry, e ViewSonic. Le aziende sono accusate da Nokia di utilizzare senza autorizzazione una serie di tecnologie legate alle antenne, alla gestione delle batterie e al sistema radio dei telefonini. RIM, il produttore del BlackBerry, ha riunito questa settimana ad Orlando, in Florida, gli sviluppatori al BlackBerry World, presentando la nuova piattaforma, l'attesissima 10, basata sullo standard HTML5. Il primo prototipo mostrato alla conferenza è un classico smartphone con schermo touch e quindi senza tastiera, Negli Stati Uniti sapete che il BlackBerry è da 13 anni uno strumento molto popolare e si sono moltiplicati i commenti e anche, devo dire, le preoccupazioni. Molti articoli erano particolarmente preoccupati per l'abbandono della tastiera fisica. Questo è proprio un tema di dibattito negli Stati Uniti, perché la tastiera del BlackBerry è un must per molte persone che ricevono centinaia e devono rispondere a centinaia di mail ogni giorno. I vertici della società hanno detto però che quello visto è solo un prototipo e nulla è definitivo. Ultima notizia riguarda LinkedIn, che ha acquistato per 118 milioni di dollari un servizio che probabilmente molti di voi conoscono, che si chiama SlideShare, un sito dove si possono caricare e condividere le proprie presentazioni. È un sito dove si trovano molte presentazioni e quindi a volte è molto utile per trovare informazioni. In questo modo LinkedIn punta ad integrare il servizio con il network professionale di 160 milioni di persone. Adesso parliamo della Singularity University, che ha fatto tappa questa settimana a Milano, anche per ribadire l'importanza di guardare al futuro, ponendo le basi per questo futuro oggi e quindi cercando di accelerare l'innovazione. Allora, questa è un'università molto particolare, ci siamo fatti raccontare che cos'è la Singularity University dallo European Advisor, nonché docente a questa università, David Orban. A partire dalla California e oggi sbarcando anche in Europa, Singularity University aiuta a capire, analizzare e fare leva sull'accelerazione del cambiamento tecnologico. Questo cambiamento riguarda tutti i campi, dai trasporti all'energia, alle biotecnologie e naturalmente l'informatica, che tutti sappiamo come rapidamente evolve. E se non conosciamo i meccanismi che sono alla base di questo cambiamento e di questa accelerazione, invece di poterlo cavalcare, ne veniamo travolti. Senti, perché è importante, oltre che comprendere questi fenomeni, anche investire concretamente in internet, nelle infrastrutture, nella conoscenza, nell'alfabetizzazione digitale, eccetera, eccetera, anche dal punto di vista economico? Da una parte la tecnologia è una grande forza democratizzatrice. Se oggi con un cellulare in mano anche un villaggio africano può avere l'informazione di cui disponeva il presidente degli Stati Uniti 20 anni fa, o con Skype possiamo comunicare direttamente in tutto il mondo in videoconferenza tra di noi, ecco che i vantaggi competitivi vengono erosi molto rapidamente. Non solo, ma se in internet nascono aziende valutate miliardi di dollari nell'arco di pochi anni o addirittura pochi mesi, qualunque azienda oggi sul mercato deve avere la capacità di analisi alla pari per prevenire di essere distrutta da queste forze emergenti. A proposito di forze emergenti, a proposito di startup, visto che se ne parla molto anche in Italia, una delle cose che si dice più spesso è investire nelle nuove tecnologie, nella diffusione di internet, favorirebbe l'occupazione giovanile. La Singularity University guarda in modo particolare alle startup, ai giovani. Noi riceviamo circa 3.000 candidature ogni anno per una scuola estiva di 10 mesi che ne accetta 80 e ci sono addirittura fuori proporzione partecipanti italiani rispetto alla popolazione della nazione. Quindi ne siamo molto molto contenti e quando questi ragazzi tornano, avendo concluso il corso estivo, sono incoraggiati a formare team che mettono in pratica le idee che nel frattempo hanno sviluppato. È essenziale che queste idee, dopo essere state formulate, possano esplodere, non crescere organicamente come poteva avvenire nel secolo scorso, ma che la loro potenzialità venga portata al massimo rapidamente con gli investitori che attraverso una quotazione in borsa oppure la vendita con un fattore di moltiplicazione adeguato possano rientrare dall'investimento perché il circolo virtuoso si chiuda e possa poi riaprirsi di nuovo. Una delle cose interessanti, tra le tante cose interessanti che ho ascoltato questa conferenza della Singularity University a Milano, una immagine mi ha colpito, che era quella dei popcorn, perché il popcorn rappresenta un po' la velocità dell'innovazione. per un bel po' di tempo, la maggior parte del tempo i popcorn si scaldano e poi alla fine esplodono. Forse questa è una cosa di cui ci stiamo accorgendo a fatica, cioè della rapidità, dell'accelerazione con cui l'innovazione sta moltiplicandosi. Questa immagine è stata su una delle slide di Eric Ezechieli, il presidente di Accelera ed ex studente della Singularity University. Accelera, una associazione non profit nata da poco, riunisce in Italia gli studenti di Singularity University, nonché simpatizzanti e coloro che ne supportano le idee. E l'immagine che ha utilizzato è così potente perché in effetti ci fa capire che i fenomeni esponenziali stanno sotto la soglia del rumore, della percettibilità per molto tempo, quando è facile smentire coloro che richiamano l'attenzione sul loro progressivo accumularsi. E quindi quando invece questa soglia viene superata, improvvisamente per coloro che non facevano attenzione, il fenomeno si presenta con tutta la sua forza. A proposito di accelerazione dell'innovazione e a proposito di visione verso il futuro, negli Stati Uniti si dice spesso the next big thing. Che cosa vedete che sta per accadere non solo negli Stati Uniti ma un po' in tutto il mondo? I campi sono tantissimi: energia, trasporti, biotecnologie, ma in particolare, forse perché non abbiamo il tempo di coprire tutti questi campi, menzionerei la stampa 3D e la produzione digitale, che saranno alla base di quella che viene chiamata la terza rivoluzione industriale, dove l'efficienza e l'efficacia dei nuovi metodi di produzione affiancati dal computer, che danno una leva incredibile alla creatività dei designer e all'inventiva umana, farà sì che, contrariamente a quello che avveniva 10 anni fa e forse ancora oggi, la componente del costo della manodopera all'interno del costo di un prodotto si riduca radicalmente e che di conseguenza i paesi a basso costo di manodopera non siano più competitivi e quindi l'outsourcing, l'offshoring non serva più come soluzione alle industrie, e che il lavoro possa tornare in quei luoghi dove la creatività, l'inventiva e il design hanno la loro forza, come anche l'Italia. Il ritorno di questo lavoro, il ritorno delle idee e il ritorno di un motore economico che porterà crescita, benessere e ottimismo verso il futuro. Era la voce di David Orban, uno dei docenti della Singularity University, nonché European Advisor per questa tappa. Abbiamo incontrato Orban in questa tappa italiana della Singularity University. Naturalmente David Orban, che probabilmente avrete sentito altre volte 2024, è spesso in Italia ma altrettanto spesso negli Stati Uniti, quindi non è mai facile intercettarlo, quindi è stata una buona occasione. Ci fermiamo, questa è 2024, riprendiamo dopo la pausa con GR24 per parlare di TV e di nuovi servizi on demand. Vi aspettiamo tra poco. 2024. Riprende 2024 la seconda parte. Vi ricordo che potete comunicare con noi scrivendoci a 2024@radio24.it oppure comunicando anche tramite Facebook, usando Twitter per seguire i nostri tweet, cercate Enrico Pagliarini. Vi ricordo anche che questa puntata, come del resto tutte le nostre puntate, sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24, un servizio, uno strumento molto interessante. Se ancora non l'avete scoperto, molti ascoltatori ci seguono prevalentemente via podcast. Questo servizio vi dà la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 oppure anche di ascoltare in streaming, quindi mentre siete agganciati ad internet, il nostro programma, la nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, saluto Gianfranco Giardina, il nostro esperto di audio, video, digitale, ma oramai non solo, di tante cose che si spostano anche in mobilità. Gianfranco, bentornato a 2024, ciao. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ricordiamo che Gianfranco Giardina, assieme ad una redazione ricca di giovani, sono prevalentemente giovani. E beh, la tecnologia normalmente chiama la gioventù. Sì. Guida questa redazione che realizza ora dopo ora il magazine digitale dday.it che si occupa di elettronica di consumo. In questi ultimi tempi, Gianfranco, vi state occupando molto, e da qui vogliamo partire, di video on demand, cioè di quei servizi che ci permettono di guardare film, programmi televisivi di qualsiasi genere a domanda, cioè quando io voglio schiaccio un bottone, poi spieghiamo come funzionano. Allora, la novità vera è di ieri l'altro. La novità vera è l'annuncio che ha fatto Mediaset, che ha esteso la propria piattaforma Premium Play anche all'iPad, quindi diciamo una mossa pre-estiva, la chiamerei, proprio per prepararsi alla mobilità che normalmente avviene d'estate, delle vacanze, e un po' una risposta anche al lancio di poche settimane fa, pochi mesi fa, di Sky con la nuova piattaforma Sky Go, anche questa su iPad. Il concetto qual è? È quello di vedere programmi televisivi, quindi una fruizione comunque video, audio e video, televisiva, in mobilità e attraverso la rete dati. Quindi quel modello che a un certo punto ha fatto capolino, no? Della TV tramite etere, quindi digitale, su device mobili, quindi su cellulare, i cosiddetti TV fonini, come sì, venivano chiamati un po' di tempo fa. Videofonino, eccetera, sì, eccetera. È un modello che è completamente affondato. Cioè, sì. L'etere non è adeguato per due motivi. Primo, perché le risorse di frequenze sono evidentemente scarse, e secondo perché è un modello di broadcast tradizionale per cui tutti vedono contemporaneamente quello che viene messo in onda. Sì, su una rete dati, quindi su internet, invece si può fare il netcasting contemporaneo, per cui tutti vedono per esempio la partita in diretta, che sì, è un grande valore per chi è interessato a vedere la partita. Però è possibile anche fare quello che dicevi, quindi il video on demand, quindi ognuno vede quello che vuole quando vuole. Quindi diciamo che i famosi videofonini funzionano, a parte quelli, i primissimi di tre che utilizzavano appunto la rete dati per scaricare, eccetera, però il DVB-H, di cui si è parlato tantissimo, è tramontato. Allora, quello era proprio una specie di digitale terrestre per i telefonini, ottimizzato, giusto? Sì, per le risoluzioni basse i telefonini. Morto completamente. Adesso gli operatori, direi Mediaset e Sky, la Rai ha anch'essa le sue applicazioni, che vedranno un po' un debutto operativo importante per gli europei di calcio. Quindi i prossimi europei, che cominciano il 7 di giugno, le partite saranno visibili anche in streaming, anche sui device. Quindi eventi in diretta, ma sicuramente molto comodi per la mobilità e quando si è in giro, magari fuori casa. Parliamo in questo caso di contenuti che comunque sono visibili, nel caso della Rai, anche sulla piattaforma non a pagamento, e quindi evidentemente sono gratis da una parte e gratis dall'altra. Sì, mentre per Sky e per Mediaset in qualche modo parliamo di servizi a pagamento. Nel caso di Sky non c'è bisogno di un canone aggiuntivo, però bisogna essere abbonati a Sky. Sì. Nel caso di Mediaset c'è un piccolo canone aggiuntivo di 4 euro al mese e bisogna comunque essere abbonati a Mediaset Premium. Benissimo. A proposito di questa novità, Marta Cagnola, che ha seguito la conferenza stampa di presentazione di questo nuovo servizio di Mediaset Premium, ha intervistato, e così sentiamo alcuni dettagli a proposito anche di prezzi, ha intervistato Marco Rosini, che è direttore commerciale e marketing proprio per il prodotto Mediaset Premium. Innanzitutto il servizio on demand, quindi noi, per noi tutto ciò che è mobilità in realtà non è mobilità di televisione in diretta come i vecchi TV fonini, ma di contenuti on demand, quindi uno deve poter scegliere quello che vuole, quando vuole e vederlo dove vuole, scusi lo slogan ma è così. Su iPad quindi si potranno vedere i contenuti di premium, quindi gli oltre 2000 contenuti nostri di Premium Play, in modalità non lineare, in più c'è la possibilità di vedersi le partite di calcio, quelli evidentemente in diretta, perché per forza si deve vivere in diretta, e poi ci sono dei servizi esclusivi, come per esempio dei canali extra, che vengono create delle sorte di playlist di contenuti che uno può guardare come fossero dei canali televisivi, ma con i contenuti che partono nel momento in cui uno schiaccia play. Quindi il servizio è veramente straordinario, provatelo. Si avvicina l'estate, quindi le domande sono film e serie, sì, e la possibilità di vederli sia in 3G sia ad esempio salvandosi, sì, questa è una novità. Sì, questa è una novità, si potranno vedere in 3G, ovviamente il 3G ha un costo, mentre la modalità che crediamo più efficace per l'estate è il download and play, quindi la possibilità per il cliente da casa di scaricarsi gli episodi delle serie che ama di più, piuttosto che un film, e guardarselo quando vuole, al mare, sul traghetto se sta andando verso la Sardegna, sulle nostre terre, piuttosto che ovunque vuole, anche in aereo, insomma. Quindi credo che questa sia veramente una funzione che sarà molto utilizzata quest'estate. Costi, devo per forza chiedere. Allora, costi 4 euro al mese, non solo per l'iPad, ma per tutti i nostri device, quindi Xbox, computer, tutti i nostri device, 4 euro tutto incluso. Ne lanceremo dei nuovi, PlayStation, Wii, vogliamo lanciare anche sui televisori della Samsung, stiamo cercando degli accordi con tanti produttori di device. Android anche? Anche Android, assolutamente, nei nostri mirini. Questo Gianfranco, al di là delle offerte commerciali degli operatori, dei costi, poi ognuno andrà sui siti internet di chi offre questi servizi per vedere se questa offerta piace o non piace, se costa poco o costa molto, però possiamo dire che è sicuramente un passaggio generazionale della TV che fra forse qualche anno sarà la normalità? Sì, direi che quasi già la normalità, nel senso, questo lo dicevamo in tempi decisamente non sospetti, credo che bisogna tornare indietro proprio da questi microfoni di almeno 6 o 7 anni, quando dicevamo che tutte la querelle sulle frequenze, del passaggio poi al digitale, eccetera, eccetera, era una questione che era largamente superata dalla tecnologia, anche se sui tavoli della politica continuava a essere dibattuta. Perché mentre si discute se qualcuno ha una posizione dominante perché ha una frequenza in più, una frequenza in meno, o quanto dovrebbe averne per essere in una situazione di pluralismo mediatico, sulla rete i canali sono virtualmente infiniti e tutti li occupano tranquillamente, viva Dio, ben inteso, per fortuna, quindi, sì, per sì, fortuna. Quindi da un certo punto di vista sta cambiando, e il fatto che a intervenire sulla rete non siano diciamo i cosiddetti newcomers, ma siano gli incumbent, quindi gli stessi operatori che poi vediamo sulle frequenze, sulle frequenze etere, beh, fa pensare molto, nel senso che chi ha quella posizione sicuramente dominante, parliamo di Mediaset, parliamo di Sky, ma anche della Rai, sulla TV tradizionale, l'innovazione in questo momento la sta facendo su altre modalità di trasmissione, diciamo così, che sono molto più flessibili e sicuramente sono il futuro, non sono forse il presente solo per via della diffusione della banda larga, sia a livello territoriale, lo sappiamo che non è ancora, purtroppo in Italia se ne sta parlando anche in questi giorni, non è ancora totalmente diffusa come dovrebbe, e anche per un motivo diciamo prettamente economico, comunque certo, avere la banda larga in casa costa diciamo 200, 300, 400 euro all'anno, certo, a seconda poi del tipo di connessioni, e averla in mobilità, beh, qualcosa comunque chiaro, costa. Poi mancano anche come dire, gli strumenti, non sono così diffusi, perché ci vuole poi computer o un tablet o uno smartphone di un certo tipo. Ci fermiamo un minuto, informazioni che arrivano da Strade e Autostrade, riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata dove stiamo parlando di TV, anche se io normalmente sono più a favore della radio, guardo pochissimo la TV, sono anni che non guardo per parecchie ore, ogni tanto qualche programma per poco tempo, però è un dato di fatto che la TV è il mezzo più utilizzato, ha un grande valore, anche perché a volte è meglio vedere cose piuttosto che ascoltare concetti, anche se ripeto, ascoltate molta radio e rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze. Dunque, abbiamo parlato di questo nuovo servizio lanciato da Mediaset all'interno dell'offerta Premium, che permette appunto di vedere film contenuti di vario genere on demand su computer, su device mobili, quindi tablet in modo particolare. Che cosa sta facendo Sky? Ho letto su dday.it e quasi quasi ieri quando leggevo questa notizia dicevo forse questa è la notizia della settimana. Allora, avete scoperto che Sky ha acquistato Aistrax, che molti ascoltatori forse non conoscono, invece è un servizio già piuttosto diffuso, forse non tanto utilizzato, però è già disponibile su alcune smart TV. Praticamente tutte le smart TV. Ah, tutte le smart TV, questo è interessante. È la piattaforma più diffusa di noleggio, diciamo, digitale, quindi di noleggio video, virtuale, sì, di film, quindi di, in realtà, streaming e downloading di film. Cioè io via streaming. Internet posso andare sulla piattaforma, scegliere un film, pago pochissimo, mi sembra, 2-3 euro. Sì, sì, sì. E lo vedo. E sì, il film si vede e basta, può anche essere messo in pausa. È interessante che Sky acquisti una piattaforma del genere. È assolutamente un segnale importantissimo, cioè evidentemente Sky oggi nel comune sentire è un operatore di TV satellitare, di IPTV satellitare. Dobbiamo abituarci a pensare che non sia più così. La presenza già nel digitale terrestre con un canale, si parla appunto che invece ritorni anche in gioco per l'asta delle nuove frequenze, quindi possa avere anche più di un canale sul digitale terrestre. Questa sarebbe una, diciamo, una, un'estensione quasi naturale, ma questa presenza sulla rete con Sky Go dato gratuitamente, nel caso di Sky, agli abbonati, il che significa semplicemente, come dire, fidelizzazione, customer care, cioè non è un prodotto in questo momento sul quale si vuole speculare, ma che si vuole usare come leva per mantenere probabilmente le posizioni e per non avere emorragie di abbonati, che alcune notizie di qualche settimana fa appunto dicevano che c'era stato un calo negli abbonati, forse anche un po' sull'onda della crisi, ci sta. Ecco, però per mantenere le posizioni Sky entra sulla rete con Sky Go, ma anche con Aistrax, il che vuol dire che si candida a diventare proprio un distributore su multicanale, no? E per multicanale intendo proprio multimezzo, multipiattaforma, multitecnologia di contenuti di intrattenimento. La centralità della rete, che oggi gli operatori incominciano a vedere in maniera importante, beh, quella che vediamo oggi, secondo me, a mio avviso, soltanto la punta dell'iceberg. Noi probabilmente, e l'abbiamo detto anche questo altre volte, fra qualche anno, non tantissimi, vedremo che negli impianti anche di casa sarà molto più importante avere vicino al TV la presa di rete rispetto alla presa di antenna. Sì. Ci saranno evidentemente tutte e due, ma nessuno vorrà un impianto nuovo senza la presa, sì, di rete. Questo ci abitueremo. Ricordo bene che tu, in diretta dal Consumer Electronics Show di Las Vegas del 2009 o 2010, parlavi già di Smart TV e raccontavamo questo scenario. Tra l'altro, una cosa che mi continua a piacere molto è che i produttori di TV potrebbero essere considerati nuovi broadcaster, perché se io sono un produttore e piazzo una piattaforma come quella che abbiamo citato di Aistrax sulla Smart TV e io colto il telecomando, invece di andare sul canale 24 vado su questa piattaforma, è chiaro che quello è un vantaggio competitivo incredibile. Beh, i produttori di TV in questo senso diventano i nuovi aggregatori di contenuti. E l'esempio è molto semplice. Supponiamo che un'azienda con una grande quota di mercato nel mondo dei TV, Samsung in questo momento, a caso, diciamo, litighi per qualsiasi motivo con Aistrax e decida di non avere più Aistrax sulle proprie piattaforme, beh, Aistrax perderebbe istantaneamente una parte molto rilevante del proprio mercato. Quindi è chiaro che da mero produttore di pezzo di ferro che è fungibile, quindi assolutamente intercambiabile marca con marca, adesso la situazione è un po' diversa. La marca conta sia per l'utente finale, che si trova alcuni servizi e altri no, a seconda della marca che sceglie, e conta anche per i broadcaster, cioè per tutti i fornitori di contenuti, perché devono fare accordi con queste persone. Abbiamo sentito la voce del manager di Rosini, di Mediaset. Poco fa, che diceva appunto che stanno stringendo accordi, per esempio, per sbarcare su Xbox, per sbarcare su Wii, su i TV Samsung. Quindi questi protagonisti che fino a poco tempo fa non esistevano, non erano su quel tavolo. Praticamente erano attori, sì, sicuramente importanti, ma non discutevano su quel tavolo. Giusto per citarvi un capitolo di questo scenario molto interessante, Mediaset qualche settimana fa ha detto: stiamo trattando con un operatore internet molto importante per la TV, poi non hanno citato il nome, lo possiamo dire, YouTube, in Spagna in modo particolare, ma poi naturalmente i discorsi vanno fatti anche in altre nazioni. Però è incredibile come un operatore del genere, che ancora oggi è una posizione dominante, stia parlando con YouTube. I paesi si stanno veramente spostando, sì, su quello che fa impressione è la velocità di queste dinamiche, che è un passo completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli anni passati. Il mondo della TV è cambiato negli ultimi anni, però parliamoci chiaro, dall'avvento delle TV private, no, a oggi ci sono state un paio di generazioni, insomma, di modelli di business, ma poco più, però sono passati decenni. Adesso nel giro di qualche anno noi vedremo un cambiamento radicale. Nella prima parte di 2024 io ho citato l'immagine dei popcorn, perché è un'immagine che io ho visto ad una conferenza questa settimana, per dire quanto l'innovazione acceleri molto, molto in questi ultimi anni. Cioè per molto tempo abbiamo scaldato i popcorn e adesso stanno esplodendo. I popcorn. Senti, poi ti chiedo se questi servizi, visto che voi a D-Day fate anche molte prove, si vedono tranquillamente, perché il problema della banda, della disponibilità è un problema. Però prima volevo capire, abbiamo citato la nuova offerta di Mediaset, abbiamo citato Sky Go, abbiamo detto che Rai ha già una serie di servizi on demand per vedere streaming, eccetera, eccetera. Ci sono altre piattaforme, cioè non stiamo parlando di tre player, ci sono altri, ad esempio iTunes ha un'offerta di film on demand, giusto? Sì, se non sta facendo un grande successo. Certo, ci sono altre piattaforme e altre ce ne saranno. In realtà qui bisogna capire quale sarà il modello, perché se abbiamo visto che tecnologicamente la cosa si può fare e funziona anche su una larga base di utenti, la domanda importante che resta a fare è: qual è il modello vincente? Per esempio Sky propone i propri canali, una selezione dei propri canali in netcasting contemporaneo, cioè in simulcast, sia su satellite contemporaneamente anche sulla rete, questa poco più di 20 canali, tra cui tutti quelli del calcio, anche ben inteso, per una visione praticamente in diretta. Mediaset utilizza un modello che è completamente diverso, perché dà priorità, oltre ad avere il calcio in diretta, un canale solo in realtà, quindi molto poco, dà priorità al video on demand, quindi al semplicemente vedere dei contenuti quando uno vuole. Allora qui bisogna vedere se insieme al cambio tecnologico l'utenza farà anche un cambio di utilizzo di questi contenuti, perché l'italiano medio, parliamoci chiaro, è abituato a subirla alla televisione, quindi fa scegliere ai programmatori i palinsesti, tanto per intenderci, e dopodiché al massimo cambia canale. Non è un grande utente on demand, cioè non ama, nella media ovviamente, poi ci sono quelli che invece lo fanno molto, ma non ama costruirsi il proprio palinsesto. Anche perché non abbiamo avuto tanti servizi all'America. No. Cioè, in America, se qualcuno conosce un po' il mercato, c'è il TiVo, che è famosissimo, certo, da anni, che offre un servizio del genere. In più c'è anche, insomma, il problema del discorso pubblicitario, cioè se si passa verso un video on demand autogestito, quindi una sorta di lo registro con i ricevitori, con l'hard disk all'interno, eccetera, eccetera, e dopodiché salto gli spot pubblicitari, è chiaro che il mercato pubblicitario viene a soffrirne. E se i broadcaster fanno loro questo servizio di registrazione virtuale, mettendosi a disposizione tutto il palinsesto che puoi rivedere, possono anche inserire in testa in coda oppure in mezzo delle interruzioni pubblicitarie se loro posseggono la piattaforma. Ecco perché anche questi operatori sono in qualche modo costretti a rivolgersi alla rete, perché se no l'alternativa è che gli utenti se la cavino da sé. C'è una cosa che ogni tanto noi diciamo, ma che a me piace molto sottolineare di nuovo: noi siamo passati da un mondo in cui si poteva videoregistrare tutto tranquillamente sulla videocassetta, in analogico, in un mondo in cui la videoregistrazione è sempre più complicata. Ai noi. Quasi impedita. In questo momento, per esempio, se si prende un TV con la cosiddetta funzione PVR, quindi Personal Video Recorder. Quindi il videoregistratore? Sì, si può videoregistrare su un device USB qualsiasi, una chiavetta, un hard disk, questo è molto bello. Però il difetto è che questi contenuti, a mio avviso inspiegabilmente, non possono essere né spostati su un altro televisore e neppure possono, neanche della stessa marca, neppure possono essere spostati su copiati, PC, cioè sono su un disco criptato sul quale non si può accedere. Questo è un obbligo che i broadcaster hanno posto ai produttori di TV se vogliono avere il bollino di GTV, tanto per intenderci. E quindi tutti i TV sono così, ma esistono dei ricevitori non bollinati di GTV o dei device senza bollino di GTV che registrano e registrano il flusso, che diventa un file digitale trasferibile e visibile anche con altri device. Questo in teoria dovrebbe essere, a nostro avviso, per tutti, e forse depotenzierebbe un po' l'offerta del video on demand. Se invece andiamo verso un mondo dove non si videoregistra più, e il video on demand diventa la nuova forma di videoregistrazione, anche se bisogna essere in condizione di avere una copertura di rete. E di questo appunto parliamo tra poco. Dunque, tanto per farvi capire come cambia il mercato, e a conferma di quello che diceva Gianfranco Giardina poco fa, Netflix, che è il più importante operatore di video on demand negli Stati Uniti, $8 al mese, si vede tutto quello che uno vuole, è il più grande generatore di traffico sulla rete internet americana. Ci fermiamo perché c'è un pizzico di pubblicità. Vi ricordo che la prossima settimana saremo in diretta dal Salone del Libro di Torino, quindi veniteci a trovare. Naturalmente parleremo di ebook, anche perché questo salone sarà fortemente concentrato sulla tecnologia, sull'innovazione, quindi parleremo di ebook con la qualità degli ospiti di 2024 su Radio 24 la prossima settimana. Ci sentiamo tra poco. 2024 riprende 2024, vi ricordo che questa puntata, come del resto tutte le nostre puntate, sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it ed entrate nella sezione podcast, oppure potete cercarci anche in altro modo, ad esempio andate su iTunes, nella sezione podcast cercate tutti i podcast di Radio 24. Naturalmente noi preferiamo che la vostra prima scelta sia 2024. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Gianfranco Giardina, che settimana dopo settimana, ora dopo ora potrei dire, guida la redazione di dday.it, dove trovate molte notizie che vi raccontano come cambia il mondo dell'elettronica di consumo. Stiamo parlando di video on demand, ci sono stati annunci nelle ultime settimane, l'ultimo un paio di giorni fa, di Mediaset, che ci fanno capire come cambia il mercato del video anche in Italia. Mentre nei palazzi della politica, nei palazzi dei ministeri, ancora si è legati al mondo delle frequenze, mentre invece bisognerebbe guardare un po' oltre, guardare alla diffusione della banda internet. A proposito di diffusione della banda internet, Gianfranco, uno potrebbe domandarsi, ma questi servizi, oggi abbiamo la possibilità di avere servizi di video on demand, le smart TV, comunque anche il computer, insomma, e tutti gli altri aggeggi che utilizziamo tutti i giorni, ma poi questi servizi si vedono tranquillamente con un collegamento ad internet, addirittura ci dicono che si possono vedere, come direbbero gli americani, on the go, quindi in mobilità mentre passeggiamo con il nostro tablet. Ma prima Carmelo Lauricella, che oggi è il nostro tecnico in regia, diceva: io guardo ogni tanto sul mio ottimo Windows Phone i servizi di Rai, però col 3G non è sempre facile con l'UMTS. Allora, potrebbe non essere facile a seconda delle condizioni, sappiamo che le condizioni variano tantissimo da momento a momento, anche nella stessa posizione, quindi bisogna comunque considerarlo. Noi possiamo parlare dei test che abbiamo fatto, per esempio, con la piattaforma di Sky, visto che il Premium Play, Mediaset Premium Play su iPad ancora non abbiamo provato. Arrivato, quindi testarlo. Giusto, diffidare, questo è importante, diffidate da chi fa il test subito. Dopo un'ora non può aver fatto un test invece. Non può aver fatto il test perché, visto negli studi, sicuramente si vede bene, ci mancherebbe, dobbiamo poi vederlo nelle condizioni di utilizzo reale. Ecco, nelle condizioni di utilizzo reale, la piattaforma di Sky, per esempio, stupisce per qualità dell'immagine. Cioè ci si aspetta, in realtà siamo abituati a uno streaming anche di qualità più bassa, invece sullo schermo dell'iPad di 10 pollici la visione è sicuramente molto buona. Stupisce positivamente. In alcune condizioni, quando la banda magari scarseggia, il sistema scala automaticamente la qualità, quindi passa a una risoluzione un po' più bassa, si vede la risoluzione un po' più bassa, però si continua a seguire per esempio l'evento che stiamo vedendo, quindi se è una partita di calcio non è che perdiamo il gol, certo. Lo vediamo magari un pochino più squarrettato, non appena la banda ritorna disponibile a sufficienza, ritorna anche la buona qualità, quindi è un sistema adattativo che in qualche modo bilancia, no, eventuali momenti o posizionamenti infelici, diciamo, di banda. Questo però va comunque sposato con una copertura 3G che non è ancora completa, con una disponibilità di banda anche quando si è in copertura 3G che in alcune situazioni è insufficiente, soprattutto nelle zone molto affollate. Cioè il paradosso è questo: uno dice, beh, io vado in centro, in città, così sicuramente lì prendo bene, sì, magari ho molto segnale, ma ci sono anche molti altri utenti con smartphone e cose simili, e quindi poi la banda viene condivisa e quindi magari non ce n'è a sufficienza, quindi anche lì bisogna vedere, attendere che cosa potrà accadere. E poi anche a livello domestico, ormai sappiamo che non tutti hanno la banda larga, oppure non hanno una connessione sufficientemente larga, sì. Anche se non è che serva molto per fare questo tipo di streaming, i codec sono molto ottimizzati, cioè con 4 megabit si va anche meno, e quindi da quel punto di vista non c'è nessun problema. Bella la novità, devo dire, introdotta da Mediaset con la piattaforma Premium Play, di questo store and play, quindi il fatto di poter memorizzare sul device il programma che si vuol vedere, quindi quello che si voleva vedere in video on demand, per una visione successiva. Quindi una visione, per esempio, che può essere fatta anche completamente fuori copertura. Quindi come diceva Rosini, anche in aereo, che non è un concetto nuovo, perché tu prima parlavi poco fa del podcast. È il podcast, né più né meno che esatto. Il podcast. È erogato con una piattaforma che in qualche modo fa da directory, quindi ti permette di scegliere facilmente cosa vuoi vedere e quindi scaricare il podcast, chiamiamolo col suo nome, esatto. Scaricare il podcast e rivederlo. Anche il podcast si può ascoltare in aereo. Assolutamente, anche il podcast. Quindi è né più né meno che un podcast che viene venduto, diciamo, come una grande novità del momento, lo è per il panorama televisivo italiano in larga parte, sì. Sicuramente molto comodo, verrà apprezzato, anche perché bisogna stare appunto molto coi piedi per terra, non siamo gli americani, diciamo, sì. Molte volte non siamo i giapponesi, siamo comunque italiani, non è pensabile che in pochi mesi o poche settimane non si possa avere una banda cresca sia in disponibilità che in quantità così velocemente tanto quanto stanno crescendo la domanda e i servizi. Sì. Scusa, hai citato il Giappone, visto che sono un fan dei giapponesi. Tu vai spesso in Giappone e questi servizi in Giappone ci sono da quanti anni? Da decenni? No, però comunque c'è una copertura sia in Giappone, ma anche, devo dire, in larga parte della Cina. In Corea non ne parliamo, che è assolutamente incredibile. Per esempio in Corea, e anche in Giappone, ma direi forse più in Corea, il fatto di vedere la TV in mobilità è un fatto assolutamente normale, assodato da molto tempo. Sì, sì. Anche questa è una curiosità, il progressive download, perché so che Sky con Sky Go diciamo, vantava tra le caratteristiche la capacità di fare progressive download e quindi migliorare la qualità del download e quindi della visione. Poi che cos'è? È una cosa tipo il podcast, cioè tipo quello che mi dicevi prima? Sì, è praticamente ci sono moltissime strategie da questo punto di vista, ma normalmente cosa succede? Il broadcaster come prima cosa verifica la velocità della linea. E a seconda della velocità della linea, decide come in pochissimi fare. Istanti, decide che tipo di qualità mandare. Dopo, mentre manda, in un primo momento il film sembra quasi non partire, il film o il contenuto potrebbe sembrare quasi non partire, in realtà il sistema sta facendo buffer, quindi sta memorizzando una prima parte di dati. Questo non su tutti i device, deve essere un device che ha capacità di memorizzazione. Per esempio i TV generalmente lo fanno un po' poco questo sistema, perché la memoria interna di un TV è molto meno. I sistemi invece con hard disk, parlo per esempio del ricevitore MySky HD di Sky, che ha l'hard disk all'interno, ecco, questo può fare buffering sull'hard disk e quindi può incominciare a scaricare più velocemente possibile rispetto alla banda il contenuto e incominciare a memorizzarlo sul disco, anche se non viene visto in quel momento perché la visione è più indietro, e quindi in questo modo garantire il fatto che anche in caso di caduta della banda, che non sia diciamo per periodi troppo lunghi, la riproduzione va avanti perché comunque i dati sono stati già scaricati. Questo è uno streaming, diciamo una via di mezzo tra lo streaming e il downloading, che permette di mediare i buchi di banda o le inefficienze temporanee della banda, e quindi trasforma in un'esperienza assolutamente senza problemi quella che invece, se non fosse applicata una strategia di questo tipo, potrebbe essere una visione a strappi, quindi con magari qualche volta delle interruzioni che sono ovviamente un qualche cosa di inammissibile per lo spettatore. Senti, questi contenuti si possono salvare, cioè una volta che sono stati scaricati o comunque in generale possono essere salvati e tenuti sull'hard disk, o dopo 48 ore, dopo una settimana scadono e non si vedono più? No, dipende dalle politiche, cioè, dipende assolutamente dalle politiche. Lo stesso broadcaster potrebbe decidere di avere anche politiche diverse a differenza dei contenuti. Quindi oppure degli tipo abbonamenti di contratto, sì, ecco, quindi, quindi nel mondo digitale i permessi e quindi i privilegi di accesso fanno tutto. E quindi qui si potrà vedere magari in un futuro in cui degli abbonati base potrebbero semplicemente vedere in netcasting determinati canali e non altri, ma questo è assolutamente similare a quello che succede via etere, ma anche semplicemente poter memorizzare il contenuto sul proprio hard disk oppure poterlo vedere soltanto in streaming. Bene, visto che come dicevo prima purtroppo, o comunque anche senza purtroppo, ma si parla molto di frequenze, e qualche settimana fa qualcuno ha cominciato a dire: attenzione, perché tra qualche anno dovremo cambiare nuovamente decoder. Uno potrebbe anche dire: vabbè, ma tanto fra qualche anno ci sarà solo il video on demand, quindi chi se ne frega del decoder. Però, giusto per fare chiarezza, perché così a cena non vi dite delle cose sbagliate, non vi raccontate delle leggende, parleremo del DVB-T2, Digital Video Broadcast, quindi il digitale terrestre, con una nuova versione. Ne riparliamo tra poco. 2024. L'ultima parte di 2024. Vi dicevo poco fa che si fa un gran parlare, poi vi spieghiamo anche perché, di un nuovo standard che arriverà sulla TV digitale terrestre nel giro di qualche anno. Alcuni dicono 2-3 anni, forse anche 4-5, anche 6-7. Il DVB-T2. Allora, DVB-T, Gianfranco, è il digitale terrestre, giusto? Quello è lo standard digitale terrestre che è in utilizzo in tutta Europa e in Italia, ovviamente. Perfetto. Allora, già da qualche tempo, perché mi sembra che ci sia stata una emittente che o ci ha provato, comunque per un po' aveva detto che avrebbe fatto trasmissioni in DVB-T2, si parla appunto di questo nuovo standard che sostanzialmente permette di migliorare l'utilizzo della banda e quindi trasmettere un numero maggiore di canali occupando lo stesso spazio nell'etere. Sì, diciamo, sostanzialmente. Se tutto va bene, un 20% in più di quello stiamo parlando, quindi un 20% di efficienza in più, che significa se mediamente su una frequenza in questo momento vengono trasmessi 5 canali, diciamo così, in alcuni casi purtroppo anche molto di più a decremento della qualità, ma parliamo di 5 canali, passerebbero a essere 6. Ecco, questo è più o meno l'ordine di grandezza. C'è una maggiore efficienza nell'utilizzo dell'etere. Ma è così importante? L'etere, secondo molti, è una risorsa scarsa. Secondo me oggi non lo è, in considerazione del fatto che chiunque abbia un TV e guardi i canali digitali terrestri troverà decine di canali di televendite che sicuramente non interessano e quindi come tali sono occupazione dell'etere anziché no. Spreco di etere. Secondo me il maggior collo di bottiglia è nella disponibilità di contenuti di qualità, non nella disponibilità di risorse di trasmissione. Una larga parte sono canali a pagamento, ma questi rientrano in una logica completamente diversa. Allora la maggiore efficienza o serve per avere un numero ancora maggiore di canali a pagamento, oppure può servire, questo va detto, nel caso in cui si decidesse di sottrarre, come già in parte deciso se non ci sono retromarce, di sottrarre frequenze alla messa in onda televisiva per darle anche in coabitazione alla banda larga telefonica. La cosa potrebbe anche accadere, allora in questo senso, diciamo, per mantenere lo stesso numero di canali si potrebbe passare alla nuova modalità trasmissiva e liberare così frequenze per la telefonia. Anche qui frequenze che sicuramente servono, sicuramente utili, però se dobbiamo vedere il vantaggio oggi e anche domani per il cittadino di passare dal DVB-T al nuovo standard DVB-T2, fatichiamo onestamente a vedere delle grandi convenienze. Il punto qual è? Il punto è che evidentemente se si passa a nuova modalità trasmissiva, gli attuali ricevitori e gli attuali TV, quindi che hanno integrato il ricevitore, quelli solo DVB-T non sarebbero più compatibili e quindi non è che si butta via il TV, ma si ritornerebbe un'altra volta alla logica di affianco al TV un decoder, ovviamente DVB-T2, compatibile. L'unica buona notizia da questo punto di vista è che i decoder DVB-T2 sono anche retrocompatibili, quindi non è che sintonizzano solo i canali DVB-T2, ma anche quelli DVB-T. Però, visto che alcuni dicono bisognerà cambiare le TV, bisognerà cambiare i decoder, in realtà se io mi tengo quello che ho, quando arriveranno queste trasmissioni, chissà poi tu mi dirai quando, io vedo solo le trasmissioni nella vecchia modalità. Non immagino che tutti passeranno al DVB-T2. Ma allora passare al DVB-T2 è quasi impensabile per un broadcaster, perché essendo un salto generazionale nuovo bisognerebbe prevedere un altro percorso di switch over e di switch off, nel senso che chi è, quindi anche non è che Rai 1, tanto per fare un esempio, o Canale 5 passa al DVB-T2 finché non c'è un installato completo di DVB-T2, dovrebbe andare in simulcast, quindi sia in uno standard che nell'altro, non è un utilizzo efficiente delle risorse dell'etere, è uno spreco di risorse dell'etere, quindi in questo senso è quasi un controsenso. Tutto nasce dal fatto che nel decreto semplificazione fiscale è stato inserito dal governo un termine, anche un'operazione secondo me meritoria, perché entro il 2015 tutti i TV in vendita integrino anche il decoder DVB-T2. È meritoria perché? Perché se mai si affermerà questo standard, è bene che la presenza del decoder diventi, come dire, un obbligo per i produttori che non vendano per troppo tempo TV che non sono compatibili anche con questo standard. Sì, ed è stato fatto in tempo. È stato fatto in tempo, però con intempestività imbarazzante. Però spieghiamo, è giusto che sia stata fatta con un largo anticipo, però forse un po' troppo per un motivo che adesso tu mi spieghi. Un po' troppo poco, dirlo adesso, con il lancio già avvenuto, la presentazione già avvenuta di tutte le nuove gamme di TV 2012, che normalmente è tra aprile e maggio tutti gli anni. In un anno in cui ci sono gli europei le Olimpiadi, quindi un anno importante per la TV. E beh, è una cosa sbagliata perché crea inutile ansia. Io sono convinto, poi magari verrò smentito, ma ci metto la faccia, in questo caso ci metto la voce. La voce. dicendo che non ci saranno trasmissioni regolari, quindi non sperimentali, in DVB-T2 prima il 2018-2020, ma se mai ci saranno. Con l'evoluzione della rete nel 2020, chi lo sa, appunto, tutto quello che abbiamo detto oggi probabilmente verrà largamente sorpassato. Sì. Quindi da questo punto di vista può essere che il DVB-T2 un po', mi viene in mente, non so, volendo tornare indietro di qualche anno, il Super Audio CD, no? Si diceva arriva il Super Audio CD e scompare il CD perché è il Super Audio CD. Sì. Semmai il Super Audio CD diventerà uno standard morto. Invece, il Super Audio CD è tecnologicamente più avanzato del CD, ma non si è affermato. Mm. Potrebbe accadere così anche al DVB-T2. Questo non vuol dire che la capacità di ricevere DVB-T2 non sia un, come dicono gli americani, nice to have, cioè quindi un qualche cosa che sia carino avere, ma non una necessità. Sicuramente non in questo momento, quindi va detto che non nessuno deve sentirsi frustrato se oggi compra un TV o un ricevitore senza DVB-T2. Le trasmissioni in questo standard sono una cosa molto lontana. Perfetto. Se mai accadranno, io temo anche che non accadranno mai, perché ripensare oggi un altro percorso di switch off quando ancora non abbiamo terminato switch off al DVB-T. Sì, sì, è giusto. Non abbiamo ancora terminato il primo switch off. Pensare già oggi a un secondo switch off è francamente irrealistico. Sì, sì. Ricordiamo, questo va detto, che alcune regioni italiane non sono passate ancora definitivamente al digitale terrestre. E questo va detto. E tra l'altro, secondo notizie appunto dell'ultima ora, potrebbe anche tardare ulteriormente lo switch off in queste regioni, in alcune di queste regioni, e quindi la situazione è un po' più complicata di come viene dipinta. Quello che io ho letto su qualche media generalista e che ho sentito anche dire in giro, e che è assolutamente falso, e vorrei smitizzare assolutamente questa cosa, è che non è vero che, per esempio, per l'alta definizione sul digitale terrestre serve il DVB-T2. L'alta definizione c'è già sul DVB-T, basta andare sul 501, c'è Rai, sul 507 c'è la 7 che trasmette quasi sempre in alta definizione. Non è vero che per vedere in 3D serva il DVB-T2, questi sono lanci pubblicitari dei promotori di DVB-T2. Sì. C'è un po' di banda in più e questo semplifica la messa in onda dell'alta definizione, del 3D, tutto quello che si vuole. Ma si può fare anche col DVB-T. Bene, quindi concludendo, non dobbiamo preoccuparci. Non dobbiamo preoccuparci. Perfetto. Bene, concludiamo questa puntata di 2024. Sono quasi le 17, quindi tra poco ci saranno le notizie di GR24. Grazie a Gianfranco Giardina, uno dei nostri esperti a 2024, devo dire dai commenti dei nostri ascoltatori uno dei preferiti. Divento rosso, non si vede in radio. Non si vede in radio. Andate su dday.it per leggere tutto quello che la redazione di Gianfranco Giardina realizza settimana dopo settimana. Io sono Enrico Paglierini, grazie come sempre ai nostri tecnici, grazie alla nostra redazione. Scriveteci a 2024@radio24.it. Questa puntata tra poco sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24, quindi avete la possibilità di riascoltarci. Vi ricordo che la prossima settimana, quindi a tal proposito potete già proporci le vostre domande, saremo in diretta dal Salone del Libro di Torino, quindi vi aspettiamo magari anche fisicamente nel nostro stand. Un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.